Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona serata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a una puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, qui in diretta dal padiglione Cibus e Italia Expo Milano 2015. Una puntata speciale, dicevo, di Nessun Luogo è Lontano. Innanzitutto però i saluti vi arrivano anche da Valerio Rocchetti, che è in regia, e Margherita Ina, che mi ha aiutato a confezionare questa puntata, che dovremmo forse ribattezzare più che Nessun Luogo è Lontano, Nessuna Storia è Lontana, perché in questa puntata sui generis di Nessun Luogo vi sarà meno geopolitica, un po' meno grandangolo, come uso dire io, piuttosto storie di persone, di luoghi, storie apparentemente lontane ma alla fine molto vicine, ma ragioneremo anche sull'importanza delle storie. Commenti, storie, esempi, suggestioni, domande al 349-238-6666, sui social Giampaz oppure Nessun Luogo 24, la pagina Facebook la conoscete, Nessun Luogo è Lontano-Radio24. Allora, per raccontare storie, anche se parliamo di storie di esteri, ci vuole ovviamente una vicenda, una storia, ci vuole un protagonista, poi ci vuole un narratore, nella fattispecie sono io, un pubblico siete voi, quelli che ascoltate la radio, e chi sta transitando qua davanti alla postazione di Radio 24 al padiglione Cibus e Italia. E poi però ci vuole una colonna sonora che punteggi, sottolinei e dia respiro. Alla fine ci vuole una chitarra, quella di Paolo Bonifacio. E poi ci vuole un flauto, che è quello di Marco Giannetti. In questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, in cui rivedremo, cercheremo di capire meglio il ruolo delle storie nel giornalismo, il ruolo delle storie di esteri, abbiamo anche fatto un esperimento, Paolo, perché alla fine abbiamo spogliato il programma e l'abbiamo rivestito con una nuova sigla fatta ad hoc. Seguitemi in questa puntata di Nessun Luogo in cui vi racconto l'importanza delle storie. Nell'ultimo mese di trasmissione vi ho raccontato vicende singole e singolari, plurali e collettive, tutte però accomunate da una caratteristica: essere storie giornalistiche. Allora la domanda da farsi è: quando una storia funziona? Quando una storia continua a essere giornalismo? Quando è universale, quando esemplifica, quando dà informazioni. Sui social vi avevo chiesto alcuni giorni fa di darmi degli esempi di storie giornalistiche che vi avevano particolarmente colpito. Beh, alcuni di voi mi hanno segnalato ovviamente quella di Aylan, il bambino di 3 anni che è morto, annegato e poi ritratto cadavere sulla spiaggia di Bodrum. Ebbene, quella storia di esteri che ha commosso tutto il mondo è una storia che ha tutte quelle tragiche caratteristiche di universalità, ci spiega esattamente, compiutamente, il dramma del popolo siriano. Verrebbe poi da dire che c'è stato anche un filo di ipocrisia da parte di tanti organi di informazione, soprattutto italiani, perché a un certo punto improvvisamente si è riscoperta la crisi siriana. C'è poi chi, sempre sui social, mi ha segnalato la storia di Matthew Van Dyke e della sua milizia Sons of Liberty International. La sua è una storia molto controversa, fatta di giornalismo e di militanza armata. Lui ha combattuto in Libia e in Siria, ma usava anche la telecamera. E allora forse la riflessione da fare è che quando sei uno storyteller, quando sei un giornalista, quando vai al fronte, o racconti chi spara oppure spari. Continuate pure a segnalarmi, se vi va, degli esempi di storie giornalistiche che vi hanno particolarmente colpito, foto memorabili, vicende memorabili, narrazioni memorabili. È il tema di questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, qui in diretta dal padiglione Cibus e Italia, con musica rigorosamente dal vivo. Paolo Bonifacio alla chitarra, Marco Giannetti al flauto traverso. La prima storia che vi voglio raccontare oggi è la storia di chi per raccontare una storia alla fine è scomparso. Partiamo dalla storia di chi è morto raccontando una storia. Ve lo ricordate? Il fotografo messicano Ruben Espinosa è stato trovato morto in un appartamento di Città del Messico venerdì 31 luglio. È stato trovato morto perché lui stava indagando, stava cercando di raccontare una storia. Ricordate la storia dei 43 studenti messicani desaparecidos? Ormai è passato più di un anno e ancora non è stata fatta compiutamente luce su quella vicenda. Questa è una storia emblematica, questa è una di quelle storie che meritano di essere raccontate. Sentite cosa dice Fabrizio Lorusso, giornalista e autore di Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, sulla figura di Ruben Espinosa. Ruben è morto perché era un giornalista, era un fotografo, aveva criticato duramente grazie alle sue immagini, no? e ai suoi articoli in cui ritraeva la repressione della polizia, soprattutto nello stato di Veracruz, aveva danneggiato in qualche modo l'immagine proprio di Javier Duarte, del governatore e in generale delle autorità. Era già stato minacciato più volte da funzionari del governo statale, dalla polizia, e per questo da 50 giorni era in qualche modo si era rifugiato nella capitale, a Città del Messico, credendo appunto, come poi tutti i giornalisti fanno, ci sono tantissimi esuli esiliati, no? Da altri stati, altre regioni della Repubblica, che poi si ritrovano effettivamente in una specie di esilio a Città del Messico perché perseguitati dalle autorità locali, municipali, statali nelle diverse regioni, per cui anche Ruben si trovava in questa situazione tant'è che il governatore di Veracruz è anche soprannominato il mata periodista, no? L'ammazza giornalisti. Non ci sono in questo senso condanne contro il governatore a livello giudiziario, ma ci sono indicazioni, ci sono accuse che vanno più o meno tutte in quella direzione. Un'altra famosa giornalista di Proceso, che è la rivista principale, più diffusa in Messico, il settimanale, Regina Martinez, era stata uccisa nel 2012, trucidata anche lì brutalmente proprio nello stato di Veracruz, no? Quindi Ruben è anche qui la punta dell'iceberg, e oltre a lui poi è stata ammazzata un'attivista che aveva lavorato col movimento Io Soy 132, quello dei ragazzi, la primavera messicana del 2012, proprio a Veracruz, ed erano appunto loro, erano amici, e tutti quelli che sono stati trovati nell'appartamento a Città del Messico, che non è più quindi quell'isola felice, no? Come si voleva far credere per i giornalisti, ma anche in generale dal punto di vista della delinquenza, quindi tutti quelli dell'appartamento sono stati poi... le ragazze sono state violentate, torturate, uccise, e Ruben appunto ha fatto la stessa fine ed è morto proprio perché raccontava la realtà, no? E questa era la voce di Fabrizio Lorusso, giornalista, autore di Narcoguerra, cronache dal Messico dei cartelli della droga, che ricordava un narratore caduto per narrare una storia, Ruben Espinosa. Adesso l'informazione sul traffico, poi nessuna storia sarà lontana. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, puntata speciale in diretta dal padiglione Cibus Italia, qui Expo 2015, puntata speciale perché dovremmo ribattezzarla Nessuna Storia è Lontana. Sto cercando di ragionare sul ruolo delle storie, storie di esteri, quindi storie apparentemente lontane. Quanto una storia di un miliziano, di un partigiano, di un pugile, di un profugo, aiutano il giornalismo, aiutano la comprensione della realtà. Vi ho raccontato il caso di Ruben Espinosa, che è uno che è morto, ha pagato con la vita il racconto, ha pagato con la vita la volontà di andare a raccontare, a fare luce sui 43 studenti messicani scomparsi. E la morte della storia, la morte dello storytelling nel giornalismo è un rischio, ma non c'è solo il rischio della morte del narratore perché la storia scotta, perché tu stai facendo le domande sbagliate nel posto sbagliato, anzi forse dovrei dire stai facendo le domande giuste nel posto giusto e per quello che ti ammazzano. La storia muore anche quando usiamo le parole sbagliate e le immagini sbagliate. Quando logoriamo i termini, le parole, allora la storia è morta. Quando usiamo a ripetizione le stesse parole le svuotiamo, allora i titoli sono sempre uguali e le storie diventano tutte uguali, anche quando non lo sono. Diventano sequenze di lettere senza alcun significato, a cui voi, che mi state ascoltando, alla fine non presterete più attenzione, perché le avete sentite troppe volte. Si chiama assuefazione e in fondo è un po', Paolo, come suonare sempre lo stesso accordo. Informazione, nel giornalismo suonare lo stesso accordo significa non fare più il nostro mestiere. Vuol dire aprire i giornali e trovare i giornali sempre con lo stesso titolo: ennesima tragedia della disperazione, il viaggio della disperazione. Questo per stare sul tema immigrazione, che lo sapete, chi mi segue, è un tema a me molto molto caro. Oppure mercanti di morte. E questi slogan, questi titoli sono stati usati in maniera eccessiva, c'è stata un'ipertrofia, un eccessivo utilizzo delle stesse parole le ha svuotate e allora il lettore quasi non si sofferma più sui concetti, sui contenuti della storia. Noi non rendiamo più dignità alle singole storie, che nella fattispecie sono i singoli migranti. Ma c'è un altro problema. Come è stata raccontata fino adesso la questione immigrazione? Molto male, ed è stata dibattuta male, perché se ci si affeziona a espressioni e a sequenze di parole che sono sempre le stesse, i giornalisti non fanno più il loro lavoro e lasciano spazio alla politica, forse alla mala politica. Politica. Io non ce l'ho con chi strumentalizza il fenomeno immigrazione, che è una delle più formidabili leve politiche ed elettorali che noi conosciamo. Alla fine io ce l'ho con chi non fa le domande giuste o chi non interrompe il politico, che continua a ripetere, a litaniare magari cifre sbagliate per ottenere un vantaggio elettorale. Allora qui ancora il ruolo della storia e del giornalismo. L'altro rischio, l'altro problema quando si fa storytelling di esteri, quando si raccontano storie molto lontane, è lo stereotipo. E attenzione, a quando raccontiamo le storie, il rischio dello stereotipo c'è sempre. Io lavoro molto spesso in Africa, e in Africa, se volete, è un po' il trionfo degli stereotipi. Allora vi ripropongo un discorso che ha fatto una scrittrice nigeriana, si chiama Chimamanda Adichie, celebrata scrittrice, alcuni dicono forse un po' troppo sopravvalutata, perché in fondo è anche bella, insomma è un personaggio. Fatto sta che ha fatto almeno un paio di apparizioni al TED, che è questo consesso dove si propagano idee. Ebbene, al TED di alcuni anni fa, Chimamanda Adichie ha parlato di quello che ha ribattezzato The Danger of a Single Story, il rischio, il pericolo della storia singola. Sentite che cosa dice Chimamanda Adichie. So that is how to create a single story. Show a people as one thing. La storia singola crea gli stereotipi. Descrivi un popolo in un unico modo e quel popolo diventerà tale. Il problema degli stereotipi non è la loro infondatezza, ma la loro incompletezza. Fanno sì che una singola storia diventi l'unica storia. È ovvio che l'Africa sia un continente pieno di catastrofi, ma ci sono anche altre storie che è necessario raccontare. Gli stereotipi rendono difficile riconoscersi come esseri umani ed enfatizzano soltanto quanto siamo diversi e non quanto siamo simili. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. La voce che avete sentito era quella di Chimamanda Adichie, scrittrice nigeriana, che ci mette sull'attenti e ci dice: attenzione al rischio dello stereotipo, attenzione al rischio dell'unico punto di vista che racconta solo un pezzettino della realtà e quindi ci perdiamo la complessità della realtà. Sono con Paolo Bonifacio alla chitarra, con Marco Giannetti al flauto traverso, per raccontarvi delle storie, storie di esteri, storie lontane, ma per ragionare anche sull'importanza delle storie. Chimamanda Adichie diceva: attenzione, perché l'Africa è un po' la terra degli stereotipi. Su Quartz, che è una rivista americana, qualche tempo fa è apparso un articolo molto molto interessante in cui venivano collezionate tutte le copertine dei libri usciti sull'Africa. Ebbene, le copertine erano sempre le stesse. E sapete cos'era? Era una acacia, un gigantesco albero di acacia al tramonto, magari con qualche gazzella che brucava il prato lì sotto. La cosa interessante è che non soltanto gli scrittori europei che scrivevano di Africa erano schiavi e sudditi di quello stereotipo, ma anche gli scrittori africani. E come in realtà, dico qua Paolo Bonifacio, Marco Giannetti, è come se noi trattando di Africa dovessimo per forza, come colonna sonora, mettere delle percussioni forsennate e indiavolate, no? Cosa che ovviamente non faremo, perché come spiegava questo editoriale di Quartz, perché tutti gli scrittori immaginano e identificano l'Africa sempre nello stesso modo? Perché è un cammino rassicurante e poco rischioso. Cioè, seguire un cammino segnato già da altri ti allontana dai rischi, non ti metti in gioco, segui lo stereotipo e lì è la morte della storia. Per chi racconta storie di esteri, lo stereotipo è un problema, soprattutto quando vai in zone dove non sei mai stato. A me è successo nel 2008, non ero mai stato in Repubblica Democratica del Congo e ovviamente ero schiavo di una certa visione che mi ero fatto. E noi ci portiamo degli stereotipi con noi. Sentite ancora la scrittrice nigeriana Nimamanda Adichie, che quando lascia la Nigeria, perché era studentessa, e va a vivere negli Stati Uniti, si porta dietro, volente o nolente, degli stereotipi. Quando lasciai la Nigeria per andare all'università negli Stati Uniti, iniziai a pensare agli stereotipi. La mia compagna di stanza era scioccata. Mi chiese dove avevo imparato a parlare l'inglese così bene. Rimasi confusa perché l'inglese, di fatto, è la lingua ufficiale del mio paese. Mi chiese se poteva ascoltare quella che chiamava la mia musica tribale. Ero davvero arrabbiata quando le mostrai la mia cassetta di Mariah Carey. Quello che mi colpì fu che si sentiva dispiaciuta per me anche prima di conoscermi. L'unico sentimento che provava per me, un'africana, era una paternalistica e ben intenzionata pietà. La mia compagna di stanza aveva una sola storia sull'Africa, una sola storia di catastrofe. In questa storia non c'era nessuna possibilità per gli africani di essere simili a lei, nessuna possibilità di sentimenti più complessi della pietà, nessuna possibilità di connessione alla pari come umani. No possibility of a connection as human equals. Sei corde di Paolo Bonifacio, il flauto traverso di Marco Giannetti, in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, in diretta da Cibus e Italia, qui Expo Milano 2015, vi stiamo raccontando storie, storie lontane, perché facciamo esteri e noi di Nessun Luogo è Lontano, e dovremmo ribattezzare questa puntata Nessuna Storia è Lontana. Quando una storia di esteri, la storia singolare di quel personaggio, di quel miliziano, di quel profugo, di quel politico, di quel cittadino, è una storia che vale la pena raccontare, quando diventa universale, quando diventa emblematica. Attenzione agli stereotipi. La scrittrice nigeriana Nimamanda Adichie ci mette in guardia da questo rischio e ci racconta anche le conseguenze delle storie su di noi. Sentite la sua educazione sentimentale letteraria, per lei nigeriana, che voleva assolutamente fare la scrittrice. Sono cresciuta in un campus di un college universitario della Nigeria orientale. Mia madre dice che ho iniziato a leggere a 2 anni, ma penso che 4 anni sia l'età che più si avvicina alla verità. Insomma, sono una lettrice precoce e ciò che leggevo allora erano soprattutto libri per bambini inglesi e americani. Ero anche una scrittrice precoce e quando iniziai a scrivere all'età di 7 anni, storie scritte a matita, illustrate a pastelli che la mia povera madre era costretta a leggere, scrivevo esattamente il tipo di racconti che ero abituata a leggere. Tutti i miei personaggi erano bianchi con gli occhi azzurri, giocavano a palle di neve, mangiavano mele, parlavano molto del tempo, di quanto fosse incantevole il sole che era sbucato dalle nuvole. Scrivevo queste storie nonostante vivessi in Nigeria e non fossi mai uscita dal mio paese, dove non avevamo neve, mangiavamo mango e non parlavamo del tempo semplicemente perché non ce n'era bisogno. Tutto ciò dimostra quanto siamo impressionabili e vulnerabili di fronte alle storie, soprattutto da bambini. Solo perché avevo letto libri con personaggi stranieri, mi ero convinta che tutti i libri, per essere tali, dovessero parlare di persone come loro e raccontare storie in cui personalmente non potevo identificare. Questo è il potere delle storie, il potere dello storytelling, parola che va tanto di moda, ma alla fine chi fa esteri fa anche storie e fa storytelling, anche di storie apparentemente lontane, ma poi che sono molto molto vicine. Adesso una piccola pausa, poi ritorniamo qui quando nessuna storia sarà lontana. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, questa è la puntata speciale di Nessun Luogo Lontano in diretta dal padiglione Cibus e Italia, qui Expo Milano 2015, una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano che abbiamo ribattezzato Nessuna Storia Lontana. Ci stiamo interrogando sul potere delle storie, sul potere della narrazione anche nel giornalismo di esteri. In questo mese di agosto appena trascorso Nessun Luogo Lontano vi ha raccontato storie di esteri, alternando il grandangolo, le grandi analisi geopolitiche con invece singole storie individuali di personaggi, di miliziani, di partigiani, di cooperanti e di rifugiati. Oggi stiamo cercando di fare un po' il punto, di tracciare lo stato dell'arte, appunto, dello storytelling. Allora lo faccio raccontandovi una storia vissuta in prima persona. Ricordo che questa storia la potete commentare, rilanciare, retweetare, Giampaz, oppure Nessun Luogo 24, gli sms al 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. La storia che ho vissuto, era il 2009, ha un nome, e il nome è Rambo. Certo, non è il Rambo cinematografico, quello che alcuni di voi immagino avranno visto sul grande schermo, quello muscolare, capace di incredibili imprese e assetato di vendetta, tutt'altro. Quel Rambo, fra l'altro, che a un certo punto finiva in Afghanistan per liberare il suo vecchio capo, il colonnello rapito in terra afghana. Il Rambo che ho conosciuto io era un ragazzo afghano di 15 anni, l'ho incontrato a Patrasso, in un porto greco. L'ho incontrato in un accampamento fatto di lamiere e di tende raffazzonate e tirate su alla buona vicino al porto di Atene. Quel campo si chiamava Little Kabul, la piccola Kabul. Ho passato circa 2 settimane a Patrasso, facevo foto, facevo reportage per la radio e cercavo di raccontare le storie di questi afghani che già nel 2009, pensate voi, facevano esattamente la rotta che fanno adesso per poi andare a Calais e poi andare in Gran Bretagna. Ebbene, alcuni mesi dopo il mio incontro con Rambo a Patrasso, questo ragazzino di 15 anni, lo chiamavano così perché era fortissimo, era un ragazzo di un nervo incredibile, era arrivato da solo, un minore non accompagnato, dall'Afghanistan fino in Grecia a Patrasso. Ebbene, alcuni mesi dopo mi sono recato a Calais, nel porto greco, nel porto francese, quello davanti alle bianche scogliere di Dover, lì dove adesso la crisi, la questione immigrazione si fa sentire in maniera particolare. E lì ero andato in quella che veniva chiamata la giungla, the jungle. E neanche a dirlo, anche lì, nella giungla di Calais, c'erano gli afghani con accampamenti, con tende, con quello stesso sport tradizionale che è il lancio della pietra, che avevo visto praticare già a Patrasso, è fondamentalmente un getto del peso ed è una disciplina tradizionale. Ebbene, proprio lì, a un certo punto, mentre stavo scattando foto, sento un urlo, mi volto e dietro di me sta arrivando di corsa Rambo, invecchiato di qualche settimana, di qualche mese, ma decisamente invecchiato, perché quei viaggi ti segnano e ti invecchiano. Mi ha abbracciato e ha urlato, in realtà non lo so se urlava in farsi o in pashtu, ma qualcuno a fianco a me ha tradotto in inglese: fratello, ti ho ritrovato. Vi racconto questa storia? Perché vi ho raccontato la storia di questo strano Rambo, antitetico rispetto all'immagine che abbiamo noi del muscoloso e muscolare John Rambo? Beh, perché quella storia lì mi ha messo di fronte a una linea rossa che stavo per oltrepassare, che è la linea del narratore che sta osservando un fenomeno, che sta riportando, sta facendo il giornalista, sta facendo il fotografo, osserva, ma ovviamente non interviene nella scena. Ho rischiato perché c'è stata empatia ovviamente con questo ragazzino, alla fine aveva 15-16 anni, che da solo si era attraversato mezzo mondo. Il rischio di cui vi parlo adesso è il rischio di finire dentro la storia e di diventare parte della storia. E lo ripetiamo, per fare questo mestiere bisogna fare un passo in avanti e uno in indietro. Il passo in avanti serve per mettere la telecamera o il microfono, il taccuino, insomma per entrare nella storia. Il passo all'indietro serve per far parlare gli altri e per rendere protagonisti gli altri. Nelle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano vi ho raccontato di quel fotografo Russell Chapman che aveva aiutato una famiglia di siriani ad andare in Germania. Lì la storia ti prende e tu ci entri dentro. Allora un'altra storia prende vita, che è quella appunto di Russell Chapman, che ha passato un mese ad Aleppo in Siria sotto i bombardamenti, si è appassionato evidentemente alla causa siriana anche in maniera comprensibilmente umana, e alla fine ha deciso di aiutare una famiglia di siriani ad arrivare in Germania. Ed è curioso che questo fenomeno ormai è diventato quasi comune nelle ultime settimane, con quel gigantesco flusso di migranti che quel quasi muro ungherese stava cercando di bloccare, ma alla fine lo sapete come la penso, i muri non funzionano, anzi alimentano il traffico di esseri umani. Infatti a Russell Chapman ho chiesto, la prima cosa che gli ho chiesto: sei un trafficante di uomini? Sentite. No, not at all, not at all, because all I did was... No, assolutamente. Un mio amico, Mohammed, che ho conosciuto quando ero ad Aleppo, mi ha detto che aveva degli amici che si preparavano a fuggire e mi ha chiesto se potevo aiutarli. Ho risposto che potevo provare. Così tutto ciò che ho fatto è stato guidare. Non li ho fatto attraversare nessun confine. Hanno varcato da soli, a piedi, ogni frontiera. Io attraversavo il confine, li attendevo dall'altra parte e se riuscivano ad attraversarlo li portavo alla frontiera successiva. I trafficanti operano per un interesse economico. Il mio intento era quello di aiutare una famiglia e un amico con cui ho avuto un normale rapporto. Tutto questo era quindi per una finalità umanitaria. Storia di Nessun Luogo è Lontano, in questa puntata speciale in diretta dal padiglione Cibus Italia qui di Expo 2015 a Milano, con Paolo Bonifacio alla chitarra e Marco Giannetti al flauto ad accompagnarci in questo viaggio, a raccontare storie ma a raccontare anche l'importanza delle storie. Vi sto raccontando di questo sottile di questa sottile linea rossa, di questo confine, di questo diaframma, è il caso di dirlo, visto che Chapman è un fotografo che a volte siamo tentati di attraversare, vediamo una situazione, dovremmo raccontare, alla fine decidiamo di agire e decidiamo di entrare in quella situazione. È interessante vedere come un giornalista viene coinvolto. Sentite ancora Russell Chapman. Quando vedi delle persone in una situazione simile, vuoi provare a fare qualcosa per aiutarli. Rimani coinvolto, viaggi con loro. E quando vedi le difficoltà che queste persone devono attraversare, vuoi aiutarle. Sai che non puoi farlo con tutti, non è possibile. Ma se puoi fare qualcosa per aiutare qualcuno, è una cosa buona. Le storie di Nessun Luogo Lontano, quanto queste aiutano o meno il giornalismo. C'è stato un dibattito, in realtà non troppo ricco, nei mesi scorsi sullo storytelling, e qualcuno, qualche giornalista italiano, diceva alla fine raccontare storie particolari non aiuta a comprendere la situazione. In realtà lo sforzo dello storyteller è proprio quello di raccontare storie universali. Sì, è una storia specifica, è accaduta quel giorno lì, in quel paese lì, in quel villaggio lì, ma è una storia che esemplifica un'intera situazione. Ma adesso stiamo ragionando sui limiti, i limiti del giornalista, i limiti di chi racconta le storie, quel limite che forse Russell Chapman, ma anche la voce che sentirete tra poco, hanno superato, perché erano lì per raccontare una storia, ma sono diventati parte di una storia. Sentite cosa dice Russell Chapman quando gli chiediamo: c'è un limite per un giornalista? C'è decisamente un confine, ma non è sempre facile definirlo con chiarezza, perché a volte uno resta davvero coinvolto dalla storia che sta raccontando, e a volte devi mantenere una certa distanza nel nome dell'oggettività. Quando ho deciso di aiutare questa famiglia, ci ho pensato molto. Non è una cosa che sono solito fare, né una cosa che avevo mai fatto prima, e onestamente non è una cosa che credo rifarò. È stata una situazione molto stressante. Perché non deve essere usuale per un fotografo che racconta storie, che poi le pubblica, le racconta per immagini, ma anche quello è storytelling, è narrazione, a un certo punto essere coinvolto in quella storia. Fra l'altro, e nella lunga chiacchierata che abbiamo avuto con Russell Chapman, ma che qui per motivi di sintesi non vi posso riproporre, ci svelava come per esempio ogni confine nella rotta balcanica valga parecchie centinaia di euro, e come le polizie di tanti stati balcanici siano coinvolti nel traffico dei migranti perché corrotte e corruttibili. Ma stiamo sempre sul tema immigrazione, perché c'è un'altra storia molto interessante che ci esemplifica quel salto del fosso, quell'abbattimento del diaframma, quel superare la linea rossa che sta tra fondamentalmente giornalismo, quindi osservazione, e militanza e attivismo. E in questo ci soccorre la storia di, probabilmente molti di voi avranno anche visto il film e la conosceranno, la storia di Gabriele Del Grande, che con altri due colleghi ha firmato un film che è fiction, ma in realtà è un modo intelligente per raccontare del traffico di migranti dentro l'Europa e per raccontare i viaggi dentro l'Europa. Il film di Gabriele Del Grande si chiama Io sto con la sposa, ed è una grande messa in scena, è una grande narrazione, è una grande storia di una sposa e di una celebrazione che si deve tenere, e che è la scusa per portare anche tre amici siriani fino in Nord Europa. Perché fare una storia come questa? Perché inscenare questa, se volete, barocca rappresentazione? Sentite che cosa dice Gabriele Del Grande. Normalmente il lavoro classico appunto è quello di ascoltare una testimonianza, di restituirla più o meno oggettivamente, almeno che esista, ammesso che esista l'oggettività, e non penso che esista. E nel nostro caso invece era non era tanto il coinvolgimento personale che faceva la differenza, era appunto la costruzione, la creazione di un contesto tale per cui quella storia diventava affascinante per il grande pubblico, no? C'è una storia che magari una storia che soltanto pochi avrebbero ascoltato se fosse stata raccontata con il solito cliché, anche a livello, no, di immaginario. C'è una persona che arriva su un gommone a Lampedusa e ancora con addosso i vestiti del viaggio, laceri dal viaggio, distrutto dal viaggio, e ti racconta, no, la sua disavventura. Invece il nostro contesto era completamente diverso, era fuori da qualsiasi stereotipo, come se facesse un cortocircuito, no, per cui il pubblico rimane incollato allo schermo, rimane, vuol sapere come va a finire quella storia lì, perché appunto c'è una sposa, c'è un bambino rapper, c'è un viaggio appunto in giacca e cravatta attraverso l'Europa, c'è gente che festeggia, quindi è una serie di immagini che cocciano, no, con quello che l'immaginario non si aspetterebbe di vedere legato a quella storia lì. Oh, puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, Nessuna Storia Lontana. La chitarra di Paolo Bonifacio si è fatta un filino più cattiva e li fa da contraltare Marco Giannetti al flauto. Traverso ancora un po' di storie da raccontarvi subito dopo la viabilità. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano in diretta dal padiglione Cibus Italia, qui Milano Expo 2015, puntata speciale perché è tutta incentrata e ragionata sulle storie, storie ovviamente di esteri, perché Nessun Luogo Lontano racconta gli esteri, storie lontane ma che poi alla fine impattano anche nella nostra vita. Vi sto raccontando quella sottile linea rossa che divide il giornalista dal militante, poiché poi tanto sottile non è. Il giornalista, lo storyteller, il narratore va in una situazione, va in Siria, va in Libia, va in Francia e racconta quello che vede, registra, scatta foto, registra video e audio. E quella sottile linea rossa a volte viene superata perché la storia ti prende, perché hai una compassione in senso etimologico. E Gabriele Del Grande, che ha firmato fra gli altri questo documentario Io sto con la sposa, ha messo in scena proprio una storia di cui lui è stato anche parte. Sentite come è nata questa storia. Rispetto alla scelta mia, sì, c'è probabilmente anche appunto il lavoro che ho fatto precedentemente io, nel senso che comunque al di là del lavoro sulla frontiera, sull'immigrazione, che ho sempre fatto diversi anni, ma nel 2012-2013 ho lavorato parecchio sulla Siria, sono stato 5 volte a seguire il conflitto. Penso che quando abbiamo conosciuto quelli che sono poi diventati i protagonisti del film, ero appena rientrato in Italia dal mio ultimo viaggio in Siria. Quindi probabilmente questo, diciamo, è stato anche uno dei fattori che ci ha, a me personalmente, che mi ha convinto, insomma, a fare questa cosa, a prenderci anche questo rischio, perché comunque abbiamo corso il rischio di essere denunciati e processati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Poi ad oggi ancora non è arrivata nessuna notifica, quindi insomma siamo tutti tranquilli, però insomma di per lì il rischio ce lo siamo presi. Probabilmente insomma, il fatto di essere stati in Siria, di aver visto la Siria, ci ha dato anche un, no? Un motivo in più per fare quello che abbiamo fatto. La colonna sonora di questa puntata in Nessun Luogo Lontano, rigorosamente live, con Paolo Bonifacio alla chitarra e Marco Giannetti al flauto traverso, per raccontarvi storie, storie lontane, storie di esteri, ma anche per raccontarvi quanto pesino le storie, quali sono i rischi di una storia raccontata male, quali sono invece i benefici e le virtù di una storia ben raccontata e come a volte il narratore possa farsi prendere dalla storia, e lo avete sentito dalle parole di Gabriele Del Grande. Ma adesso mi voglio mettere in mezzo io di nuovo e vi voglio raccontare una storia molto molto lontana. È una storia secondo me esemplificativa, perché è una storia circostanziata che parla di una singola persona, che parla di una singola storia, ma che alla fine esemplifica un piccolo universo. Allora facciamo questo esempio e facciamo a pugni. 1, 2, 3, 4, chi fa 5? Oui. 1, 2, 3, 4. Yes, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. E la voce che avete sentito, intanto c'è la chitarra di Paolo Bonifacio e di Marco Giannetti, ma adesso chiedo Valerio, facciamo risentire quella voce e quel sudore. Perché quelle voci e quei respiri e quell'affanno e quel sudore sono una storia incredibile. È una scuola di pugilato, siamo a Goma, capitale del Nord Kivu, Repubblica Democratica del Congo, lì dove c'è il trionfo delle storie, se volete. Io sono appassionatissimo di Congo perché in maniera irriverente alcuni dei colleghi tra di noi ci si dice: guardate, il Congo alla fine è il Luna Park dei giornalisti. E tra le tante storie che ho raccontato dal 2008 a questa parte, andando spesso appunto in archivio, una era particolarmente golosa, perché lo avete sentito, si parla di pugilato, si parla di box, la nobile arte, la box, metafora di redenzione, eppure ancora i bambini soldato, emblema di orrore e inciviltà, il tutto racchiuso da un personaggio incredibilmente forte e di cui avete sentito la voce e le urla di incitamento, Kibo Mango, un pugile che ormai ha passato i 40 anni, senza un occhio, grande combattente ma con vellità, pensate, persino nel mondo dello spettacolo. Ebbene, Kibo Mango ha perso un occhio e qui il cerchio in qualche modo si chiude, quella magia, no, di una storia perfetta, oserei dire. Ha perso un occhio perché era bambino soldato ai tempi di Mobutu, dittatore dello Zaire. Perse quell'occhio e nonostante un occhio solo, immaginate che fatica a fare il pugile senza avere la possibilità di avere fondamentalmente una guardia completa, perché non hai visione dei pugni che ti arrivano dal lato manco, dove non hai vista, dove non vedi l'avversario che sta sferrando i pugni verso di te. Ebbene, nonostante questo ha combattuto un sacco di incontri e molto spesso ne è uscito vincitore. Dicevo, una storia emblematica perché c'è la box, che è un esempio universale, no? Di redenzione, di sfida, di agonismo, anche di uscita dalla strada, dalla polvere e dalla povertà. E poi c'è il concetto, il problema dei bambini soldato, che è stato tantissime volte raccontato da tanti colleghi, un problema che però se lo raccontiamo sempre nello stesso modo e torniamo al concetto iniziale, logoriamo i termini, logoriamo le foto, beh, alla fine non stiamo più a sentire storie struggenti e anche un po' noiose, diciamolo, di bambini soldato. Ma se trovi un pugile incredibile, muscolosissimo, fortissimo, senza un occhio, che campione imbattuto da 10 anni, beh, insomma, lì veramente hai trovato la storia incredibile che ti permette di raccontare i bambini soldato, ma ti permette anche di raccontare altre storie. E fra l'altro ho dei ricordi molto vividi, perché quando andavo a seguire gli allenamenti di Kibo Mango e del suo gruppo di giovani pugili, dove vi erano anche ex bambini soldato, perché poi l'incredibile forza di questa storia è che lui, da ex bambino soldato, addestra al pugilato ex bambini soldato. La forza anche di questa storia era alzarsi alle 5 del mattino col buio che avvolgeva la città di Goma e andare in questo scantinato sotto allo stadio del vulcano lì della capitale di Goma, tutto eroso dall'ultima colata lavica, e lì vedere questi ragazzi che si allenano dalle 5 e mezza fino alle 6 e mezza, 7 del mattino, e pensate, sono così con le pezze al sedere, perdonatemi la parola, che non hanno nemmeno i soldi per acquistare l'acqua per rifocillarsi dopo un allenamento. Beh, l'ultima volta che ci sono stato, lo ammetto, lo devo dire, mi sono lasciato prendere dalla storia, gli ho regalato un po' di guantoni e un po' di fasce per potersi allenare, e lì forse sì, ho superato un po' quella sottile linea rossa che stavo cercando di descrivermi un po' prima. Sperando che non suoni troppo funereo o troppo funesto, in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, Nessuna Storia Lontana, vi ho spesso parlato della morte della storia. Quando una storia non funziona, quando non offre un buon servizio al giornalismo, quando celebriamo il funerale della storia. Lo avete sentito all'inizio, il funerale della storia si consuma quando muore chi la raccontava, quando lo stereotipo offusca tutto, quando il narratore offusca la storia, no? Voi direte, lo stai facendo, Musumeci? Sì, forse sì, ma questa puntata è dedicata proprio a questo. E sto narrando dell'importanza delle storie, sto cercando di non fare melassoso protagonismo. Anche quella è morte. Però vorrei chiudere ricordandovi chi è stato il primo grande narratore, uno tra i primi grandi narratori, che per seguire una storia che per lui era importantissima ha rischiato la vita, e in effetti c'è morto. Sentite come Plinio il Giovane narra di suo zio Plinio il Vecchio. Il nono giorno prima delle calende di settembre, circa all'ora settima, mia madre gli fa notare che sta apparendo una nube sia di grandezza che di aspetto insoliti. Egli chiede i sandali, sale su un luogo dal quale quel fatto straordinario poteva essere osservato al meglio. Come ad un uomo molto erudito, a lui sembrò una cosa importante e da conoscere più da vicino. Altrove era già giorno, lì una notte più nera e più fitta di tutte le notti. Si decise se uscire sul Lido e vedere da vicino se ormai il mare concedesse qualche possibilità, mare che rimaneva ancora violento e avverso. Sorreggendosi su due schiavi, si alzò e subito cadde, come io immagino, essendosi per la caligine troppo pesante bloccato il respiro e chiusa la gola. Quando ritornò il giorno, il suo corpo fu ritrovato intatto, illeso e coperto come era stato vestito. La posizione del corpo era più simile a quella di uno che riposa che a quella di un morto. Mi chiedi di scriverti la fine del mio zio materno per poterla tramandare ai posteri più fedelmente. Te ne rendo grazie. Infatti mi rendo conto che per la sua morte, se è celebrata da te, si prospetta una gloria immortale. Benché infatti sia morto nella distruzione di bellissime terre per un evento memorabile, molto tuttavia la sua perennità aggiungerà l'eternità dei tuoi scritti. In verità, ritengo felici coloro ai quali è stato dato perdono degli dèi, o di fare cose degne di essere scritte, o di scrivere cose degne di essere lette. E questo è il ricordo di Plinio il Giovane su Plinio il Vecchio. Qui è la magia dello storytelling, quelle storie che rimangono eterne anche a distanza di secoli. Adesso ho pochissimi secondi, allora lanciamo i titoli di coda live. Con i quali posso ringraziare Margherita Ina, che ha confezionato con me questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, Valerio Rocchetti in regia, Paolo Bonifacio alla chitarra e Marco Giannetti al flauto traverso, che hanno dato musica e ritmo a questa puntata. Ho il tempo di salutarvi e spegnere il microfono, riprendere lo zaino e ricordarvi che nessuna storia è lontana.